Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, il programma prevede di parlare di dissenso a titolo personale, di ostaggi del pallone e grazie all'ospite Carlo Ernesto Menga una volta all'anno qui fra noi da Reggio Calabria di parlare della gamba del bracciante nonché di pagliuzze negli occhi dei concorrenti.